100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Il Tribunale di Milano ha quindi dato ragione ai taxisti. Uber fa concorrenza sleale a chi svolge il servizio taxi e quindi non può operare. Uber, lo ricordiamo, è una società americana che attraverso un'applicazione Uber Pop offre un servizio che di fatto trasforma chiunque in un autista. Basta avere un'auto, la patente da almeno 3 anni, rispettare alcuni semplici requisiti, per esempio bisogna avere un'assicurazione che copra anche i passeggeri trasportati, e il gioco è fatto, si può portare a destinazione chiunque utilizzi questa app, e naturalmente applicando tariffe più vantaggiose rispetto a quelle dei taxisti. La battaglia tra la multinazionale americana e i taxisti, che ricordiamolo sono invece soggetti a una regolamentazione molto rigida, per esempio devono applicare una tariffa decisa dalle autorità locali, proseguirà quindi a lungo tempo nelle aule dei tribunali e vedremo alla fine chi avrà ragione. Sui social network, su internet, ieri si sono letti tantissimi commenti, devo dire con una prevalenza per chi ha criticato la sentenza del Tribunale di Milano, ma non è questo il punto, perché ciò che davvero colpisce in questa vicenda non è il parere più o meno autorevole di un giudice, ciò che colpisce è l'assenza totale della politica a tutti i livelli, la sua incapacità di trovare una soluzione per conciliare le richieste legittime dei taxisti di non subire concorrenza sleale e quelle dei consumatori di poter pagare il prezzo più basso per un servizio. La politica invece non ha scelto, trovando molto più comodo che fosse un giudice a fare il lavoro sporco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Sono i dati dell'OCSE a indicare oggi come il lavoro giovanile, o meglio la mancanza di lavoro giovanile, stia rappresentando un problema sempre più grave per tutti i paesi, in qualsiasi parte del globo. Ma colpisce che in questo panorama sia proprio il nostro paese a evidenziare le difficoltà maggiori. Negli anni della crisi tra il 2007 e il 2013 solo la Grecia ha fatto peggio di noi. Il tasso di giovani fino a 29 anni che hanno un lavoro è precipitato dal 64 al 52%. Un andamento molto negativo che peraltro si riflette anche tra chi giovane non lo è più. Così nella fascia di età tra i 30 e i 54 anni il tasso di occupazione è sceso dal 75% del 2007 al 71% dell'anno scorso e anche in questo caso siamo in coda alla classifica dei paesi OCSE. Tra i tanti dati dell'organismo per la cooperazione e lo sviluppo economico comunque colpisce sempre quello che dei cosiddetti NEET, quelli che definiamo gli inattivi, vale a dire i giovani fino a 29 anni che non sono occupati, che non studiano e che non stanno facendo forme di training o apprendistato. In Italia sono il 26%, un giovane ogni 4. Il nostro paese è evidente, oltre a un problema occupazionale generale, ne ha uno specifico legato ai giovani e a questo esercito di sfiduciati, ai quali il governo deve dare risposte concrete, perché quelle previste dal piano chiamato Garanzia Giovani non stanno producendo i risultati necessari. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.